Iran meno 2,75%, Eni meno 2,22% con il petrolio che scende sotto i 78 dollari al barile. Peraltro, lo ricordiamo ancora, oggi convocazione al Ministero dello Sviluppo Economico dei petrolieri, oltre che dei pastai. Mister Prezzi vuol far luce sulla dinamica dei prezzi di questi due settori. Banco Popolare meno 2,10, Fondiaria meno 1,91, Impregilo ed Italcementi sono in calo di circa l'1,8%, Popolare di Milano, Bulgari, STM in calo di 1,5%. Questi sono i temi di mercato. L'euro sul dollaro quota 1,4314. Prima di lasciare il mercato volevo segnalare una cosa. Come sapete, noi seguiamo in maniera costante le vicende dei risparmiatori, protagonisti dei grandi crack finanziari del passato. Oggi c'è una nuova notizia che riguarda gli investitori coinvolti nel 2001 nel crack dell'Argentina, perché questi hanno organizzato una nuova protesta questa mattina, prima davanti al Ministero delle Finanze e poi alla Camera dei Deputati, per chiedere al governo di intervenire nei confronti del paese sudamericano per sollecitare la restituzione di quanto sottratto con la bancarotta nel 2001 e a risollevare un po' il cattivo umore da parte di queste persone. C'è la notizia che è circolata nei giorni scorsi, secondo cui l'Argentina nasconderebbe 40 miliardi in un conto in Svizzera presso la Banca dei Regolamenti Internazionali, e questo naturalmente ha riscaldato gli animi degli investitori che hanno programmato questa azione per sensibilizzare il governo. Peraltro questa notizia di questi 40 miliardi in Svizzera è stata data nei giorni scorsi da un'istituzione statunitense, dall'American Task Force Argentina. Il presidente di questo organismo sarà a Roma nei prossimi giorni, giovedì e venerdì. Noi abbiamo già concordato un'intervista con questo personaggio, che si chiama Robert Shapiro, per cui naturalmente torneremo su questo argomento come abbiamo sempre fatto in questi anni. Lasciamo la borsa, lasciamo i mercati, lasciamo l'Argentina, adesso invece parliamo delle nostre pensioni. Coefficienti, scala mobile, conguagli. Il 2010 si preannuncia amaro per i pensionati italiani. Innanzitutto, chi lascia il lavoro quest'anno avrà una pensione più leggera se ha versato meno di 18 anni di contributi entro il 1995. Dal 1 di gennaio, infatti, sono entrati in vigore i nuovi coefficienti per il calcolo dei trattamenti, quantificati con il sistema misto o interamente contributivo. In sostanza, rispetto ai valori in vigore fino al 31 dicembre, si registra una riduzione che va dal 6,38% per chi può mettersi in pensione a 57 anni all'8,41% per chi si ritira a 65 anni. Sono interessati ai nuovi coefficienti coloro che hanno diritto a una pensione di vecchiaia, mentre sono esclusi coloro che, avendo 18 anni di contributi al 31 dicembre 95, restano agganciati anche per gli anni a venire al calcolo retributivo. Come se non bastasse, con la scala mobile arriva solo un mini aumento dello 0,7%, reso ancora più magro da un conguaglio negativo sulle spettanze del 2009. Quanto invece all'età della pensione, si sposterà in avanti solo dal 2015 con piccoli ritocchi. Il primo sarà di 3 mesi, legati all'aumento della vita media. Le donne del pubblico impiego, invece, già da quest'anno, a causa di una sentenza della Corte europea, dovranno lavorare un anno in più rispetto alle colleghe del settore privato. 800 24 00 24 è il vostro numero verde, perché non è di Radio 24, ma è il numero verde a vostra disposizione per le vostre domande. 349 238 6666 invece il numero per i vostri messaggi. D'Onofrio, da che cosa cominciamo? Qua davvero di temi da spiegare ai nostri ascoltatori ce ne sono tanti. Vogliamo tornare un po', per chi non si fosse arrabbiato abbastanza, su questo assegno di gennaio percepito da molti pensionati che è risultato più leggero rispetto al previsto, colpa della scala mobile e anche di questo conguaglio che per i pensionati viene fatto in gennaio. E allora ritorniamo un po' a definire ai nostri ascoltatori qual è la dinamica della pensione appunto versata in gennaio. Sì, certamente. Dunque, intanto c'è da dire, come è stato poi anche detto correttamente nella scheda, che questo mini aumento risente di questa discesa rapida dell'inflazione, perché ogni anno praticamente gli enti previdenziali fanno un calcolo sui dati di settembre, salvo poi fare un conguaglio nell'anno successivo, questo per avere la possibilità di pagare puntualmente al 1 gennaio gli importi aggiornati. Quest'anno per la prima volta si è verificato anche un conguaglio negativo, perché l'inflazione di settembre 2008 è risultata leggermente più alta, 0,1% di quella della fine del 2008. Il discorso sulla scala mobile comunque ecco, resta di estrema attualità, nel senso che c'è consapevolezza da parte di tutti che questo meccanismo forse è il momento di cambiarlo, soprattutto ecco, per alleviare le condizioni dei pensionati meno abbienti, tanto che in Parlamento c'è una proposta bipartisan di due esponenti della maggioranza e dell'opposizione, Giuliano Cazzola e Treu, che appunto propongono un sistema misto di agganciamento sia all'andamento dell'inflazione sia all'evoluzione delle retribuzioni, cioè all'andamento dei salari che sono, come sappiamo, legati alla produttività. Esattamente, mentre invece adesso, tanto per specificarlo, la cosiddetta perequazione automatica soltanto alle retribuzioni. Sull'andamento. Ma solo all'indice, esatto, ai prezzi al consumo, non alla crescita delle retribuzioni. Esatto, ai prezzi al consumo. Allora, quindi, come ci diceva appunto D'Onofrio, questo meccanismo della perequazione automatica, già revisionato diverse volte, probabilmente richiede un ulteriore intervento e chissà che nei prossimi mesi non si studi anche questo, e già lo studio, che non si passi poi di fatto alle vie concrete. Un altro tema molto importante è invece quello dei nuovi coefficienti di trasformazione, perché le pensioni che hanno decorrenza da questo mese d'ora in avanti saranno più basse proprio se calcolate con il sistema misto e contributivo. Questo importo mensile risente delle entrate in funzione di questi nuovi coefficienti che trasformano in pensione quanto è stato versato dal 96 in avanti, con un impatto diverso peraltro a seconda dei lavoratori che prendiamo in esame. Magari su questo punto torniamo fra qualche istante. Io comincerei anche, Sergio D'Onofrio, a sentire alcune considerazioni dei nostri ascoltatori, che naturalmente a prescindere poi dalle regole generali, qua ognuno deve fare un calcolo sulla base di quello che è stato il proprio percorso professionale, il proprio percorso contributivo, per cui c'è una situazione estremamente frammentata per i trattamenti pensionistici nel nostro paese. Allora cominciamo con Alessandro da Roma, che saluto. Alessandro. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti quanti. Io avrei questa domanda. Mia moglie ha maturato di andare in pensione, anzi la finestra si è aperta ad aprile del 2008 con il calcolo retributivo, così ci hanno detto all'INPS. Ora quest'anno, forse nel mese di marzo, deciderà di andare in pensione. Volevo sapere, ma questi indici incideranno anche sulla sua pensione, oppure, avendo lei un diritto già acquisito precedentemente, non incideranno sulle... Grazie Alessandro, abbiamo capito, speriamo che la domanda sia chiara anche per Sergio D'Onofrio. Le regole per andare in pensione, questo è il tema di questa mattina a Salvadanaio con il nostro Sergio D'Onofrio, docente di legislazione sociale presso la LUMS di Roma, esperto in materia previdenziale per il Sole 24 Ore. Siccome sono stati tanti i cambiamenti che sono intervenuti recentemente, che riguardano tutte le pensioni in procinto appunto di abbandonare la professione per il meritato periodo di riposo, quindi per la pensione, allora stamattina cerchiamo di capire come devono comportarsi chi ha maturato i requisiti e quindi sta appunto lasciando il lavoro. Allora Sergio, abbiamo sentito il caso del nostro Alessandro da Roma, che ci faceva il caso della moglie e ci diceva che praticamente la finestra per andare in pensione a questa persona si è aperta nell'aprile del 2008, quindi addirittura torniamo indietro nel tempo. Allora, perché fino ad ora non è andata in pensione la moglie di Alessandro, pur avendo maturato già i requisiti ad aprile 2008? Ma evidentemente è stata una sua libera scelta, sia perché ancora interessa a lavorare, sia anche per avere una pensione più rotonda, ma non è assolutamente interessata al discorso dei coefficienti, perché è una persona che ha, appunto, con una pensione di anzianità ha più di 18 anni al 31 dicembre del 95 e quindi non andrà con il calcolo retributivo e quindi non ha problemi sotto questo aspetto, assolutamente. Allora, tra l'altro, il fatto che alla moglie di Alessandro si sia aperta la finestra per andare in pensione nell'aprile del 2008 mi fa venire in mente un'altra domanda da rivolgerle, D'Onofrio. Aprile 2008 significa che questa lavoratrice praticamente poteva uscire in una delle quattro finestre possibili nel corso dell'anno, che però non valgono per tutti i lavoratori in procinto di andare in pensione. Chi ha la possibilità di disporre delle quattro finestre d'uscita? Esattamente, esattamente. Questa possibilità ce l'hanno soltanto coloro che che hanno maturato 40 anni di contributi, i quali appunto possono mettersi in pensione dal secondo trimestre successivo a quello in cui maturano i requisiti, per cui se una persona, per fare un esempio, li matura tra gennaio e marzo, può uscire dal primo luglio dello stesso anno, mentre coloro che vanno in pensione con meno di 40 anni di contributi, sempre con la pensione di anzianità, ebbene costoro hanno una finestra più ritardata che si apre nel secondo semestre successivo a quello in cui si maturano i requisiti. Quindi nell'esempio di prima, requisiti maturati entro il primo semestre di quest'anno, pensione dal primo gennaio del 2011. Mm-hmm. Allora, Alessandro, prendo a riferimento sempre il caso di questo ascoltatore romano, ha toccato il tema del coefficiente di trasformazione perché voleva capire se l'assegno pensionistico che sua moglie percepirà sarà toccato dai nuovi coefficienti. Allora, da quest'anno ci confrontiamo con una revisione triennale dei coefficienti di trasformazione, che sono quei coefficienti che praticamente trasformano l'ultima retribuzione in assegno pensionistico a seconda delle aspettative di vita che vive il nostro paese. Prima la trasformazione di questi coefficienti, D'Onofrio, ricordiamolo, era decennale, ma adesso abbiamo dovuto fare questo importante cambiamento. Sì, un importante cambiamento che si è reso necessario perché fortunatamente, il caso di dire, gli italiani sono un popolo longevo, c'è un notevole aumento della vita media e quindi si ritiene giusto fare questa revisione ogni tre anni. Quindi aumentando l'aspettativa di vita aumenta anche il periodo in cui si viene a percepire la pensione. Chiaramente questi coefficienti adesso, già ora, comportano, come abbiamo avuto modo di sottolineare, un abbassamento dell'importo, ma questo abbassamento dell'importo può essere compensato, però questa è la previsione del futuro, già dal 2015, andando in pensione un po' più tardi, perché c'è già nella legge anticrisi di quest'anno è previsto un adeguamento dell'uscita sia per anzianità che di vecchiaia in base, diciamo, all'aumento della vita media. Ecco, e poi la riforma del 95 che ha introdotto questo calcolo contributivo è stata anche introdotta nella previsione che ci fosse la cosiddetta seconda gamba, cioè una pensione integrativa che compensava la minore copertura data dalla pensione INPS. La ringrazio per aver fatto questa precisazione, perché molto spesso gli ascoltatori, come dire, quelli non convinti delle forme di previdenza complementare, quando facciamo le trasmissioni dedicate ai piani pensionistici, ai fondi pensione, sono sempre un po', molti ancora rimangono molto scettici sulla necessità di versare il TFR in questi strumenti di previdenza complementare, ma almeno con la sua osservazione, D'Onofrio, abbiamo cercato anche in maniera semplice di far capire le motivazioni per cui è necessario dirottare parte delle nostre risorse. Lo so che è spiacevole per qualcuno, lo so che molti vorrebbero continuare, per la verità lo fanno già, a mantenere il proprio TFR in azienda, e però, insomma, visto che la nostra vita si allunga, è chiaro che la pensione che percepiamo dobbiamo spalmarla in numero più ampio di anni, e se le risorse versate negli anni di lavoro sono state quelle, dovendole spalmare su un numero maggiore di anni, per l'appunto, è chiaro che dobbiamo anche prevedere un'integrazione di quella forma di reddito che magari non potrà essere sufficiente quando appunto andremo in pensione, soprattutto se vogliamo mantenere lo stesso standard di vita che abbiamo vissuto fino al momento della pensione, per l'appunto. Allora sentirei poi, se poi D'Onofrio ho fatto tutta questa riflessione, se vuole poi ritornarci, naturalmente ben volentieri. Le faccio sentire intanto anche un'altra osservazione, un'altra domanda di un altro ascoltatore e poi andiamo avanti. Antonio, buongiorno da Milano. Buongiorno a voi, grazie. Io sono un commerciante, vorrei dire ormai un ex commerciante, perché quando ho deciso di ritirarmi a causa di salute, perché per artrite, ernia al disco, eccetera, perché ho fatto lavoro molto pesante, casse, mm-hmm, di acqua minerale su e giù per le scale, quando ho deciso di ritirarmi, il mio CAF, la mia associazione, dei contesi aveva detto: andrai con fine settembre del 2007, finestra aprile 2008. Uh-huh. Torno dopo un paio d'anni, sì, i conti sono quelli, facciamo la verifica, tutto bene, tutto ok, e chiudo cedo il mio lavoro a un nipote, che tra l'altro questo lavoro ormai si è ridotto moltissimo a causa della grande distribuzione. Grande distribuzione, quindi piccolo negozio, insomma, al dettaglio, ovviamente, che ha risentito un po' della Milano e provincia ha superato ogni livello europeo di presenza. Antonio, magari poi la faccio intervenire su questo argomento quando lo faremo a Salvadanaio. Per quello che riguarda la sua pensione, quindi, in sostanza, cosa ha scoperto? Vede che io mi ritrovo che invece questi hanno sbagliato i calcoli. Insomma, devo andare adesso con quello di anzianità. E nel frattempo io mi ero preso degli impegni economici ai quali non riesco a far fronte, se non che questi signori dicono: noi ci chiamiamo fuori. Non so quanto sia giusto, però è successo così. Allora. Dopodiché mi ritrovo che nel calcolo, per esempio, il militare mi viene calcolato 10 mesi anziché 15, io ero sergente, per cui ho fatto 15 mesi esatti, e ho dovuto cercare tra le pieghe delle possibilità, e c'è quella di proprio prevista per la grande distribuzione, di poter andare in prepensionamento a causa di questa presenza. Ho chiesto quanto mi sarebbe stato erogato, mi hanno detto 485 euro al mese, e non posso esercitare alcuna altra attività integrativa perché mi verrebbe ritirato tutto quello che mi venisse dato. Cioè, questo è un carcere. Antonio, allora, io aspetti, pensavo di ottenere almeno il 70-80% di quello che ho versato, che mi spetterebbe fino al raggiungimento del 65esimo. Antonio, aspetti lì un attimo, sembra una questione piuttosto complessa la sua, per cui volevo capire anche se Sergio D'Onofrio, per risponderle, avesse bisogno appunto di altre informazioni. D'Onofrio, allora, intanto Antonio dice che comunque c'è stato un errore palese da parte del patronato, che gli ha fatto tutti i calcoli e, insomma, addirittura una cosa uscita proprio al momento del pensionamento e non prima. Ma sono diffuse in questi casi, secondo quello che le risulta? Questa è certamente una cosa spiacevole. E comunque, ecco, dal resoconto che ci ha fatto l'ascoltatore, emerge il fatto che lui praticamente, alla luce anche di una revisione dei calcoli che presumo abbia fatto presso un ufficio dell'INPS, non avrebbe i requisiti per mettersi in pensione con il trattamento di anzianità. E però in alternativa potrebbe usufruire del cosiddetto prepensionamento per i piccoli commercianti che chiudono un'attività. Questa forma di aiuto, però, ecco, come lui stesso conferma, porta nel suo portafoglio una risorsa molto limitata. Ecco, non dà più del trattamento minimo dell'INPS, che oggi sono 460 euro al mese. Mm-hmm. Lui deve in sostanza decidere adesso se intanto, diciamo, acquisire questo trattamento per poi, nel momento in cui avrà i 65 anni, avere poi la pensione di vecchiaia, che sarà ricalcolata in base a tutta la contribuzione che ha versato durante la vita lavorativa. Ma secondo lei, adesso, a parte tutto, a parte il calcolo, poi non so neanche, D'Onofrio, se lei ha mai scritto su questo argomento, un errore fatto da un ente che dovrebbe garantire ovviamente la consulenza migliore possibile su questi temi che sono così delicati, perché voglio dire, andare in pensione e calcolare anche quanto vivere con l'assegno che si percepisce non è un tema secondario per la vita di molti pensionati, che veramente percepiscono, tra l'altro, poi veramente poco. Si può rivalere, secondo lei, sul patronato? Adesso non lo so se introduco un tema che la mette in difficoltà, però non lo so. No, assolutamente, nel senso che il patronato è un'associazione di diritto privato che fa una consulenza, prende degli impegni, se ha messo nero su bianco una cosa che non risponde a verità, così il cittadino può fare un'azione di risarcimento nei suoi confronti. Magari Antonio ci scriva, così vediamo anche a chi fa capo questo patronato, perché fanno capo anche ai sindacati, ad altre organizzazioni a cui noi ci rivolgiamo molto spesso per chiedere consulenze anche per Salvadanaio, per capire. Adesso poi magari non cambia niente, però perché pure far passare, no, questo spiacevole accaduto per il nostro ascoltatore. Sentiamo la domanda di Stefano dalla provincia di Verona e poi andiamo ai suggerimenti per chi è in viaggio. Stefano, benvenuto, 800 24 00 24, numero verde per tutti gli altri ascoltatori, state prenotando in tantissimi oggi. Stefano. Grazie infinite. Io volevo porre un quesito semplicissimo, ovvero io con 36 anni di contributi si è aperta già la mia finestra al 1° gennaio scorso. Sì. Però paradossalmente l'INPS mi ha detto che sì, io posso continuare a lavorare fino al raggiungimento dei 40 anni di contributi, però loro, appunto, di qui il paradosso, non mi assicurano che il mio che il calcolo con il quale verrà fuori la pensione nel corso degli anni potrebbe anche cambiare, per cui sembrerebbe che io continuo a lavorare, ma nella realtà rischio di vedermi la pensione più bassa che non se andassi subito. Allora, l'ascoltatore di Verona, Stefano, ci ha raccontato che lui ha già raggiunto i 36 anni di contributi versati, quindi ha teoricamente il diritto ad andare in pensione grazie alla finestra che si è aperta in gennaio. Però vorrebbe continuare a lavorare, credo, per raggiungere i 40 anni di versamenti, ma l'INPS gli ha detto: guarda, fai attenzione perché non potremmo garantirti anche una pensione che potrebbe essere l'ammontare attuale che tu potresti percepire. Donofrio, questo perché gli ha detto l'INPS? Adesso io ho fatto ragionamento mentre stavano andando i suggerimenti per chi è in viaggio, proprio in virtù del fatto che abbiamo detto che i coefficienti di trasformazione adesso cambiano ogni 3 anni, per cui lui dovrebbe lavorarne 4, teoricamente ricade nel nuovo ricalcolo? Assolutamente, ho l'impressione che ci sia stato un vero e proprio malinteso tra l'ascoltatore e l'INPS, perché avendo lui 36 anni di contributi è fuori dal discorso dei coefficienti, va in pensione con il vecchio calcolo, cioè quello retributivo agganciato alla retribuzione media degli ultimi anni di lavoro, e in più, se continua a lavorare, matura un 2%, una quota di pensione del 2% per ogni anno di lavoro in più. Quindi, insomma, il lavoro almeno fino ai 40 anni è produttivo ai fini della pensione. Per quanto riguarda i coefficienti, ecco, due battute per chiarire un po' tutto il quadro di questa questione, che interessa obiettivamente milioni di persone, soprattutto quelle, diciamo, dai 50 anni in su. La revisione dei coefficienti con il cosiddetto calcolo misto, cioè per coloro che avranno una pensione che è in parte retributiva e in parte contributiva, l'effetto è attenuato perché la quota retributiva compensa buona parte di quello che si perde con il contributivo, e addirittura per i lavoratori dipendenti che hanno una retribuzione sopra i 60.000 euro c'è addirittura un qualcosa in più, perché il contributivo praticamente utilizza al massimo i versamenti che sono stati versati, mentre nel retributivo sopra una certa soglia c'è un abbassamento del rendimento. E poi altra cosa, mi riferisco a quel progetto di legge bipartisan di cui parlavo prima, Cazzola-Treu, addirittura adesso si prevede, si sta, diciamo, ragionando su una revisione di questi coefficienti per garantire a chi ha retribuzioni basse una soglia che sarebbe intorno al 60% della retribuzione di fine attività. Soglia al di sotto del quale, come dire, un po' sarebbe difficile sopravvivere. Indubbiamente. Poi certo dipende anche. Indubbiamente. Allora, no, tra l'altro, in tutto questo parlare ci siamo soffermati a lungo sulle pensioni percepite in gennaio di coloro che hanno notato appunto un assegno più basso di quello atteso, e ci siamo dilungati sul tema dei nuovi coefficienti di trasformazione, su tutte le novità anche che potranno arrivare prossimamente a questo proposito. Non abbiamo toccato affatto, Donofrio, il tema del sistema delle quote che è stato introdotto con il cosiddetto protocollo sul welfare, la legge 247 del 2007. Certo. Dunque, le quote sono partite il 1 luglio del 2009, ma partite nel senso che per acquisire il diritto dal 1 luglio 2009 in poi bisogna raggiungere la cosiddetta quota 95, che è data dalla somma dell'età e degli anni di versamenti effettuati. Oppure se si hanno, ad esempio, questo con 35 più 60 anni di età, oppure con 36 anni di versamenti e 59 di età. Ecco, questa quota, chi ha raggiunto la quota dal 1 luglio in poi, però andrà in pensione soltanto dal 1 luglio prossimo, perché per quel meccanismo delle finestre che in sostanza ritardano di almeno 6 mesi l'uscita per la pensione. Certo. Allora, questa ovviamente è la spiegazione sui criteri estremamente generali del tema delle quote. Intanto andiamo agli altri ascoltatori con le altre domande. Emanuela dalla provincia di Biella, buongiorno. Pronto, buongiorno signora, grazie per l'opportunità. Grazie a lei. Io invece sembra che abbia raggiunto le quote, ho raggiunto gli anni, però c'è qualcosa forse che non mi quadra, perché io a fine febbraio maturo effettivi 40 anni di contributi. Sì. Mi dicono però che la mia finestra sarà a gennaio 2011. Quanti anni ha Emanuela, ecco, se glielo posso chiedere? Lo so che non è molto carino ad una signora, no, però. No, ma infatti io, diciamo, quest'anno compirò 56 anni. Mm. Io pensavo che 40 anni maturati, tutto a posto, la finestra si aprisse prima, pur non avendo 57 anni. Forse solo quello è il motivo che io dovrei avere la pensione dal prossimo gennaio. Allora Emanuela, si fermi là. Io so il criterio generale per andare in pensione di anzianità per i lavoratori. Lei lavora nel settore pubblico o privato, Emanuela? Privato. Per i lavoratori dipendenti possono, che abbiano maturato 40 anni di contributi entro il 30 settembre del 2009, possono andare in pensione con qualsiasi età. Vale anche per la nostra ascoltatrice questa regola, D'Onofrio? Certamente sì, però ecco, sulle finestre dobbiamo fare una precisazione che è questa. La legge stabilisce che ci sono 4 finestre all'anno, però le finestre di luglio e ottobre sono chiuse per coloro che hanno meno di 57 anni di età. Eccoci e questo qui. È purtroppo il caso della nostra ascoltatrice. Della nostra ascoltatrice, per cui la risposta dell'INPS è giusta e potrà andare in pensione soltanto dal 1 gennaio del 2011. Il sistema delle finestre si è notevolmente rimescolato con gli ultimi provvedimenti, D'Onofrio. Prima il meccanismo mi sembra fosse un po' più semplice. O no? Sì, è diventato un po' più articolato, è diventato un po' più articolato perché tra l'altro si innesta il discorso delle quote e quindi c'è praticamente questo doppio binario per quelli che hanno i 40 anni e per quelli che hanno meno di 40 anni, e poi per quelli che hanno meno di 40 anni c'è questa, diciamo, possiamo definirla così, questa anomalia che se non si hanno 57 anni non si può uscire con le finestre di luglio-ottobre, per cui alcuni ad esempio si trovano avvantaggiati con questo meccanismo, perché se hanno compiuto gli anni dopo, nel secondo semestre dell'anno, aspettano meno di quelli che, come la signora, invece l'età l'hanno compiuta nel primo semestre dell'anno. E intanto andiamo a Luigi da Milano. Luigi, che cosa ha ricevuto dalla sua banca? Grazie a voi. Scusate per il mio piccolo problema rispetto a quelle che avete trattato finora. Ma ci mancherebbe. Ho ricevuto stamattina la lettera dalla banca che ha incassato fresca, la pensione. Fresca. E qui c'è una voce che io non ho sentito e mi informerò però se avete l'occasione per divulgarla. Conguaglio pensione da rinnovo, che cos'è? Da rinnovo? Beh, abbiamo parlato tanto del conguaglio di inizio anno, Sergio D'Onofrio, lei quella da rinnovo, quello da rinnovo? Sì, si tratta appunto di questo conguaglio dello 0,1% che appunto sui 13 mesi ha sviluppato una certa cifra e tra l'altro l'INPS ha stabilito che questo conguaglio per le pensioni sotto un certo importo viene fatto soltanto sulla rata di gennaio, se sono soltanto 6 euro. Se è una cifra invece superiore, potrebbe essere questo il caso del nostro ascoltatore, viene spalmata su due mesi, cioè su gennaio e febbraio. No, Luigi, voglio dire, a parte la dicitura che lei non comprendeva, c'è stata anche una variazione notevole anche dell'importo percepito? Certo. Di quanto? Nel mio caso sono 12 euro. Ah, ecco, quindi sono. Per cui invece di avere l'aumento ne avremo diminuzione della pensione. Sì, e infatti, che era un po' il tema che abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione, D'Onofrio. Sì, indubbiamente, indubbiamente. Allora, sentiamo adesso l'ultima. Sì, io devo chiudere per la verità. Pietro da Bari mi deve fare una domanda in 10 secondi. Sì, ci provo. Grazie a voi. Dunque, nel 95 avevo soltanto 17 anni e 6 mesi. La prima parte della domanda è questa: se c'è qualche remota possibilità di integrare e ritrovarsi nel vecchio sistema, cioè in quello retributivo. Perché lei non vuole andare col misto? Ovviamente, non voglio essere quei poveri diavoli che prenderanno meno della pensione sociale a partire dal 2030. Pietro, grazie. Vado subito a D'Onofrio. Come fa a coprire Pietro questi 6 mesi che gli mancano? Può coprirlo soltanto se ha praticamente dei riscatti aperti, cioè nel senso che magari, non so, dei periodi di lavoro non coperti che però lui può giustificare come lavorati, allora chiede il riscatto per acquisire quell'anzianità che si colloca entro il 95. Quindi insomma Pietro deve fare un po' un check-up della sua situazione professionale pregressa. D'Onofrio, non riusciamo ad andare avanti perché sto già rubando secondi ai colleghi della redazione. Io la ringrazio ancora una volta per essersi messa a nostra disposizione e soprattutto dei nostri ascoltatori per rispondere alla loro tempesta di domande. Grazie, buona giornata e buon anno ancora. D'Onofrio? Sì, buon anno a tutti. A presto, arrivederci. Io ringrazio Gaia Romani e Alessandro Longoni per la collaborazione in redazione, Fabio Cantadori stamattina in assistenza tecnica, non li saluto mai, oggi riesco a farlo. Salva Danaio torna domani, a presto. Salva Danaio.